Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Pierluigi Pardo, ciao. Hola, come va? Molto bene, compleanno, 14 anni di Radio 24. Sì, 14 grandissimi anni. Il direttore ha promesso che ci regala il motorino, il cinquantino. Ah sì? Buono, sì. Ci piace. Lui non lo sa ancora. Io ho una percentuale di, a Roma si dice di chioppi, cioè di botti dal motorino, più o meno ogni tre volte che lo prendo faccio un incidente. A parte questo però è un bellissimo regalo, grazie. Sì, in compenso poi portiamo a spasso De Laurentiis quando scappa, certo, dalla Lega. Certo, se il sorteggio non dovesse andare bene, scena straordinaria quella, veramente geniale, assolutamente geniale. Intanto voglio fare i complimenti, e sono molto serio, 80024 0024, voglio fare i complimenti alla Lazio di Floccari e alla Viola di Ambrosini, due vecchi draghi del nostro calcio, perché quando ce vo ce vo. Tante volte ci siamo vergognati, ed è la parola giusta, del comportamento delle nostre squadre in Europa League, l'abbiamo detto anche ieri, no? Mentre l'ultima serata, il pane rimonta a Trebisonda della Lazio, la vittoria della Fiore in Ucraina sono state un gran bel segnale. Ma poi i calcoli eventualmente sull'Europa League, che ci possono anche stare, non prendiamoci in giro, perché se uno lotta per lo scudetto, mi ricordo quel Milan-Napoli, sì, certo, di 2-3 anni fa con il Napoli in Europa League che giocava col Villarreal, è chiaro che se lotti per lo scudetto lo posso anche capire come ragionamento, sì, certo. Ma intanto vai avanti, poi febbraio-marzo si vedrà, insomma, siccome poi probabilmente queste molto spesso le squadre che vanno in Europa League poi lottano magari per conquistare un posto in Europa League, allora a quel punto conviene continuare a farlo. Auguriamo ovviamente a Lazio e Fiorentina di lottare per ogni traguardo, ci mancherebbe, però voglio dire, intanto è da sottolineare questa grande dimostrazione di professionalità e insomma di maturità proprio europea. Intanto, caro Pier, nel weekend ci aspettiamo qualcosa di grande, Inter-Roma e la notte degli esami. Noi ce l'abbiamo sempre, chi è stato il mio giocatore potrebbe dirlo in qualunque momento, io cerco di inculcare dal primo minuto in cui mi affidano una squadra la mentalità che non c'è, di non accontentarsi mai, che si può sempre migliorare anche a 30 anni, che se fino a quel momento non si è fatto delle cose si possono fare, quindi noi non ci accontentiamo mai, poi obiettivi e altre cose aspettano a voi, a noi non ci interessa, noi bisogna concentrarsi come stiamo facendo partita dopo partita per cercare di dare il meglio di noi stessi. Oggi l'abbiamo fatto, per il momento l'abbiamo fatto, bisogna continuare fino alla fine. Occhio ad Alvarez, fa tutto Alvarez, è un gol straordinario quello di Ricky Alvarez, 35 del secondo tempo, dopo una prova di grande sacrificio, aspettavamo il grande numero e il grande numero è arrivato. Alvarez, il sinistro, palla in mezzo, Jonathan, controllo di Jonathan, il tiro, rete, Jonathan, Inter in vantaggio. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio, è un detto francese. Era una partita importantissima per noi e soprattutto per i nostri tifosi. E come ho detto prima della partita, un derby non si gioca, si vince. Gervinho, punta Anderson, Gervinho, va via, Gervinho, un gol meraviglioso di Gervinho, doppietta per lui. De Rossi, Strootman, Benassia, azione di Benassia che viene messo giù al limite, poi il pallone in rete, la Roma avanti al 20esimo, Sampdoria 0, Roma 1. Adesso ascoltiamo il traffico, poi ne parliamo con Pierluigi Pardo e anche con voi. 80024 0024. Tutti convocati. Strade in diretta. Per un incidente si è formata coda sul raccordo anulare di Roma tra la Nomentana e la 24 Roma Teramo in carreggiata interna. Altre code per un incidente lungo la Roma Fiumicino tra l'aeroporto di Fiumicino e l'innesto con la 12 Roma Civitavecchia in direzione Roma. Sempre a Roma altre code, ma per il traffico intenso sulla 24 Roma-Teramo tra il raccordo anulare e Tor Cervara in direzione tangenziale est. Ci spostiamo in Sicilia, per un incidente si è formata coda sulla 19 Palermo-Catania tra Catena Nuova e Gervini in direzione di Palermo. Sulla 13 Bologna-Padova traffico a rilento per carico disperso tra Bologna Interporto e l'innesto con la 14 in direzione Bologna. Per ora è tutto, il prossimo aggiornamento alle 14.45. Promo 24. Ci si domanda come si muoveranno domani i mercati finanziari e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading con IG. IG ti dà accesso a oltre 20 borse internazionali e la piattaforma non comporta alcun canone di utilizzo. Con il servizio esclusivo Insight avrai un filo diretto con i nostri esperti, con commenti, analisi e news sul mercato. IG ti offre un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sul trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. Tutti convocati. Vedo già Daniele da Roma in linea, ovviamente è De Rossi. Certo. Aspetta un attimo, Pierluigi, di solito queste partite finiscono con un pareggione. Ma no, non sempre. Spesso. Io penso sia chiaramente una partita equilibratissima. Sono due squadre molto simili, cioè sono le due rinate, sono le due rivoluzionarie di questo campionato. Il lavoro che hanno fatto Garcia e Mazzarri è abbastanza simile, cioè sì. Aver ricreato prima di tutto l'autostima nella testa dei giocatori. La Roma forse come punte di qualità di gioco è stata anche un filo superiore, però il lavoro di Mazzarri è stato eccezionale, comunque per certi versi ancora più difficile perché Garcia ha avuto tanti giocatori nuovi. Mazzarri praticamente ha trasformato Jonathan nel fratello bravo, Nagatomo nel fratello bravo e così via. E Alvarez nel fratello bravo. Assolutamente, nel fratello prodigio. Sì. Ma comunque fai benissimo a sottolineare il nome dei due allenatori che secondo me sono i grandi protagonisti di questa sfida sorprendente a inizio stagione. Nessuno avrebbe pensato di trovare Roma e Inter dove sono adesso a sfidarsi, a giocarsi così la notte degli esami in questa maniera. Daniele Roma, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. A te. Complimenti a Pardo per la solidità, che è l'unica trasmissione sportiva che riesco a seguire. Bravissimo. Ricordiamo gli appuntamenti lunedì alle 23:20 su Italia 1. Benissimo, fine dello spot, vai. Parente, vero? Daniele sì, Pardo. Daniele da Roma, il cugino. Sulla... Esatto. Bella Daniele. Volevo intervenire sulla Champions. Sì. Per quanto riguarda la Juventus, soprattutto, credo sia spacciata, onestamente. Addirittura? Sì, credo sia spacciata. Non vedo margini di qualificazione. Con Real Madrid farà forse un punto a Torino se le va bene, e poi dovrà cimentarsi con l'Europa League. È una squadra che in Champions non riesce a dettare i ritmi, non riesce ad entrare nella partita di Champions. È incredibile errore di Bonucci, non si possono fare errori del genere nella partita di Champions, onestamente. Non si possono fare errori in una partita ad alto livello, certamente, ma io quanto cupo pessimismo. No, io non sono per niente d'accordo. Io penso che si qualificherà, penso che sicuramente la partita col Galatasaray l'ultima giornata sarà decisiva. Conte voleva arrivare molto più in discesa, sicuramente, a questa qualificazione, quindi è ovvio che per ora è un fallimento. Però, secondo me, la Juve ha possibilità e occhio, perché la Champions è uno sport strano, nel quale basti pensare a quella che ha vinto l'Inter nel 2010, magari tu puoi soffrire durante la prima fase, poi a febbraio comincia proprio, è un altro sport, perché magari c'è stato il mercato in mezzo, perché sono cambiati gli equilibri, perché si comincia a giocare nei 180 minuti, quindi attenzione prima di dare spacciata la Juve. Senti, en passant, però, poi ne parliamo con calma anche della Juventus, c'è stata questa lettera agli azionisti di Agnelli che è stata più che altro una dichiarazione di intenti, e Agnelli, detto per inciso, secondo me ha ragione nel sottolineare l'inesistenza dell'attuale Lega. Ovviamente lui parla dell'opposizione e credo anche che parla dall'opposizione, sì. Credo anche che la partita dei diritti TV sul fronte internazionale sia decisiva, perché è quella la partita che ha reso ricchissimi gli inglesi. Comunque, parlando di campo, Conte continua a chiedere interventi di mercato. Ma Conte, ragazzi, è deluso dal mercato, eh? Non è che l'ha nascosto. Poi diciamo che l'episodio che ha fatto, diciamo, traboccare il vaso è stato sicuramente la cessione di Matri, perché in un primo momento certamente lui aveva altre idee. Però insomma, che ci sia guarda, Conte quest'anno sta facendo delle cose un po' strane, nel senso che di solito gli allenatori sono dei pompieri, no? Sono vanno e ridimensionano ogni possibile caso. La sensazione invece è che forse per dare una strigliata anche psicologica alla squadra che fin qui non è arrivata, Conte quest'anno in certe situazioni cerchi il nervosismo, cerchi la polemica mediatica, anche il discorso di Pirlo, per carità, è giusto il fatto che il giocatore debba rimanere in panchina, però che in maniera così clamorosa si debba stare lì a dettare una regola a uno che comunque è un monumento del calcio mondiale, insomma, è la sensazione, ma secondo me è una strategia lucida da parte di Conte, che vuole da un lato mandare un messaggio alla società, dall'altro probabilmente dare una svegliata ai giocatori che non hanno ancora quel livello di intensità e di concentrazione che c'era l'anno scorso. Verissimo, secondo me sta cercando i tasti giusti da pigiare, perché non riesce più a trovare così quella cattiveria, quella rabbia, ma anche in maniera fisiologica, che aveva sempre avuto dalla Juventus, perché sappiamo come gli scudetti riempiono la pancia, piacciono, è così. E allora sta cercando tasti giusti un po' strani. Ma pensa se Matri dovesse segnare alla Juve, sentiamolo. No, sto aspettando il mio primo gol e basta. Poi adesso c'è la Juve, speriamo che il destino voglia quello. Se segni esulti? Ma se segno penso di sì, perché la gioia del gol non è bello strozzarla, l'ho fatto, ho esultato anche contro il Cagliari, quindi è giusto esultare anche contro il Juventus. Bravo Matri, ci sono due cose, caro Pardo, che mi fa venire l'orticaria. Uno, uno è il finto fair play, il falso fair play, ecco, dei palloni contro i cartoni pubblicitari. Io preferisco la squadra che gioca e poi l'arbitro si fischia, se no si va avanti. Sì. La seconda è questa storia dell'esultanza. Assolutamente, io mi ricordo Rooney segnare col Manchester United contro l'Everton appena passato. Io penso che è l'essenza del gol, il gol è l'essenza del calcio, una frase di una banalità della quale mi vergogno, però è così. E quindi ha ragione Matri, ha detto tutto Matri. Oltretutto, in un momento come questo, dove il gol per lui non arriva, è chiaro che insomma sarebbe ancora più clamoroso, no? Quindi assolutamente sì. Poi che qualcuno in un momento possa avere il tifoso avversario possa avere del fastidio di fronte a una cosa del genere, questo può essere, lo capisco perfettamente. Però insomma, se togliamo al giocatore che ha appena segnato, che la possibilità di impazzire di gioia, che cosa ci rimane? Ma insieme ai tuoi tifosi, ma perché disse bene quella volta, te lo ricorderai perfettamente tu, Crespo, prima di giocare Old Trafford il gol è un orgasmo, e allora bisogna godere tutti insieme con i tuoi tifosi, altrimenti che senso ha? Assolutamente. Sammy Bologna. Grazie di essere convocato. Grazie a te. Solo una cosa, all'inizio, perché ci sarà l'Inter e la Roma, una cosa giocando le coppe. Allora, sono diventati bravi, mentre le altre, come la Fiorentina e la Lazio, sento, Sammy, sente malissimo, però il concetto malissimo. Se non abbiamo capito male, è quello delle coppe che non ci sono, ed è sicuramente un'opportunità in più che hanno Inter e Roma. Insomma, tendenzialmente la grandezza, la profondità della rosa deve essere legata al numero di competizioni che fai. Mazzarri, secondo me, e la storia lo dimostra, è uno specialista soprattutto quando ha due competizioni solo, soltanto, perché lui ama i titolarissimi, ha i suoi fedelissimi, non è un uomo di grandi rotazioni, non è uno che ne fa ruotare 20-22, è uno da 15-16 giocatori, per cui quando ha due competizioni chiaramente si trova in una situazione di vantaggio. Anche la Roma sta sicuramente sfruttando questo tipo di situazione, che poi ovviamente i maggiori benefici te li dà a lungo termine, perché insomma man mano che va avanti la stagione, che la stanchezza può diventare un elemento che frena chi ha avuto più impegni. Sono due allenatori diversi ma molto furbi, Conte, cioè Mazzarri e Garcia, perché Mazzarri è stato bravo, tu hai ragione, lui ama i titolarissimi, ama la formazione tipo, soprattutto quando deve costruire, mi sembra che questa sia la strada giusta. Poi ha creato una squadra di grande pragmatismo. E la conseguenza di questo è stata la nuova vita di giocatori che sembravano dei rottami, quelli che tu hai citato prima. Garcia è stato furbo da un altro punto di vista, lui ha grande talento a disposizione, però è arrivato lì e ha detto: ok, Totti e De Rossi mica gli faccio la guerra, stringo un patto con loro, e in cambio ne ha ricevuto molta fiducia da parte di tutto l'ambiente. Sì, assolutamente, ma insomma sono stati bravi tutti e due. Fra l'altro Garcia, insomma, aveva una certa una certa difficoltà nelle partenze veloci, no? Nelle partenze intelligenti, e nel senso che nella sua carriera era uno che tendeva a partire un po' lento, un po' all'Allegri, e poi a crescere con il passare della stagione. E quest'anno evidentemente gli hanno fatto capire che per la situazione psicologica che c'era a Roma dopo due annate molto molto negative non poteva permettersi una partenza lenta, che sarebbe stata catastrofica dal punto di vista ambientale, e mi sembra insomma che fin qui sia partito discretamente, ecco. 800 24 00 24, numero verde per rispondere alla convocazione. Ma a proposito di Garcia, non ho ancora capito, sentiamolo sull'ambiente Roma. È lo stesso che a casa, no? Con una famiglia, siamo più una famiglia che un club. Ha lo sguardo del duro, ma non sempre così. È importante riflettere, però anche è molto importante di a volte pensare con il cuore, sicuro. Giulio Salerno, buongiorno. Salve ragazzi. Volevo dirvi che mi sembrate come Balo e Ibra messi insieme. Chi? Non l'ho mai vista. Balo e Ibra, però scusa, a Genta gli facciamo fare Balo perché ci mollami. Io faccio Ibra. Ne è degno, ne è degno. Esatto. Dal punto di vista delle qualità, ovviamente. Niente, io volevo porvi una domanda, ma non è una bestemmia, e intendo dire, secondo voi quanto c'è di Zeman in questa Roma? Nel senso che se Garcia è stato bravo a portare un livello superiore e a migliorare quelle che erano un po' le doti del boemo, secondo la vostra opinione. Io dico due cose, una in negativo, cioè l'esempio contrario, nel senso che la Roma dell'anno scorso ha giocato anche delle mezz'ore molto belle con Zeman, raramente, ma le ha giocate, contro la Fiorentina, contro il Milan, contro Bologna e Udinese fece delle partenze incredibili, però non teneva i 90 minuti, giocava sempre a manetta, e probabilmente nel calcio di oggi non si può giocare a manetta, e quindi quest'anno secondo me la squadra ha imparato e fa il contrario. E poi invece una cosa che secondo me bisogna riconoscere assolutamente a Zeman è Totti, perché Totti, da quando c'è stata quella preparazione l'anno scorso con Zeman e il feeling comunque che c'era fra tutti e due, è tornato su livelli che secondo me negli anni immediatamente precedenti non aveva avuto. Era sempre stato grandissimo con i piedi, ma ha trovato una condizione fisica che è quella di 5-6 anni fa. Sì, io sono d'accordo soprattutto sul primo punto, sai, Piana. Cioè, di Zeman, a contrario, c'è la rabbia che così ha iniettato a molti giocatori, soprattutto tra i senatori, una rabbia che, a contrario, dicevamo, quest'anno si sta vedendo con Garcia. Vogliono dimostrare che forse quello aveva sbagliato. Tutti convocati. Caro Pierluigi Pardo, si fa un sacco di masturbazione mentale sul peso specifico dell'allenatore all'interno di una squadra, percentuali, quanto conta, 20%, sì, 10%, 30%. Sì. Chiediamolo a un allenatore. Sì, lo chiede. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Davis, mangia. Buongiorno. Buongiorno. Mister, è caduto? Mangia? Ecco, va bene. Allora, mentre lo richiamiamo, ci sono due messaggi interessanti. Uno che ci dice che più che sì, Ibra e Balotelli sembriamo Sukure e Pančev. Io vorrei essere Pančev. E io proprio di panza. E poi invece no, molto interessante, altro merito su Zeman: buona parte dei 90 milioni incassati in estate. Questo è vero, perché insomma la crescita di Marquinhos e direi soprattutto di Lamela è stata davvero, davvero qualcosa di importante, sì, di significativo, e insomma Zeman c'entra con quello. Per cui, insomma... però non dimentichiamo, in concorso con quello che è venuto dopo di lui, perché anche il buon Andrea Azzoli la sua parte l'ha fatta, dai, perché trascurarlo? No, vabbè, sì. Perché condividiamo, no, condividiamo questi meriti, anche perché insomma è arrivato, sì, beh, dopo. Andrea Azzoli ha normalizzato la squadra in un momento in cui la Roma era ingovernabile, ingestibile, e probabilmente io non credo mai che uno possa giocare contro l'allenatore, però in uno sport come il calcio, nel quale poi alla fine la differenza la fanno i dettagli, no? Quindi il livello di concentrazione che riesce ad avere, forse Zeman aveva perso il controllo. Quindi sicuramente Andrea Azzoli qualcosa di buono ha fatto, poi però gli è mancata, mi pare, proprio la statura per poter sì, allenare, certo, stabilmente la squadra in un certo modo. Quindi... Certo. No, ma comunque secondo me Zeman ha capito poco nell'importanza che certi senatori avevano per quella squadra e per quell'ambiente. Quindi giocare allo scontro frontale non è stata una grandissima idea. Facciamo fatica a recuperare il mister, ma vedrai che ce la facciamo. Prima c'è Giuseppe da Bologna, vogliamo andare? Giuseppe? A Bologna, certo. Salve, buongiorno. Sento una domanda riguardo l'Inter. Col rientro di Milito, come cambiano gli equilibri secondo voi per quel che riguarda il reparto offensivo? Visto che in questo momento la squadra sembra aver trovato comunque un equilibrio senza la presenza di Milito. Sì. rischia di essere è una cosa diversa. In effetti con Milito io credo potremmo vedere un'Inter diversa, anche perché Pierre Mazzarri ha trovato un equilibrio con una squadra secondo me molto difensiva, con il solo Palacio a fare la boa, e Palacio non è esattamente un centravanti boa. Con Milito come la mettiamo? Perché una coppia Milito Palacio non so se questa è in grado di supportarla. Per me so che può sembrare un po' una bestemmia, perché Milito ovviamente è un monumento assoluto, però in questo momento la domanda dell'ascoltatore è legittima, giusta, perché l'Inter ha trovato, ma l'ha detto candidamente Mazzarri, l'Inter si è ritrovata sulla fase difensiva, non c'è niente di male, insomma. Mazzarri l'ha detto in grandissima onestà, è una squadra che comunque aveva bisogno di recuperare autostima, aveva bisogno di ritrovare delle certezze soprattutto nel non prendere gol, una squadra che lo scorso anno, lo ricordiamo, in casa imbarcava gol nell'ultima parte della stagione in maniera incredibile, nonostante un grande Handanovic, quindi pensa senza Handanovic che sarebbe successo, sì. E quindi sicuramente ha funzionato questo tipo di filosofia. Secondo me adesso l'Inter sta bene in campo in questo modo, 3-5-1-1, con Alvarez che in questo momento non puoi togliere e con Palacio che non puoi togliere, per cui Milito arriva in un momento che non è ideale. Poi è chiaro che Milito ha dei valori tecnici e anche di personalità enormi, per cui se recupera la condizione migliore poi torna a essere decisivo, ma in questo momento non è facilissimamente inquadrabile. Sì, sono d'accordo. Parliamo un attimo della Juventus, il discorso che facevamo prima, poi c'è Maurizio da Roma. Le dichiarazioni di intenti di Agnelli tu le condividi oppure no? Io ho già preso la mia posizione, cioè secondo me Agnelli ha ragione sull'immobilismo della Lega. Ho detto prima, parla dall'opposizione, perché di fatto le elezioni le ha perse, ha vinto la cordata Galliani e Lotito, ma questo lo sappiamo tutti, sì. Agnelli sottolinea come una partita importante si giochi sul fronte dei diritti televisivi all'estero, perché sappiamo anche come le squadre inglesi, anche l'ultima delle arrivate in Premier League, abbia una barca di soldi da spendere sul mercato, quelli italiani meno. Sì, no, ma questo senz'altro, però ecco, non mi risulta che ci fossero tutti questi soggetti, questi advisor in lotta uno con l'altro, mi sembra che insomma ci fosse stata una convergenza assoluta, e mi pare che c'è un contratto con l'advisor, adesso è un argomento particolarmente noioso, ci sono i primi svenimenti, gente, se state guidando mi raccomando resistete, perché l'argomento degli advisor e dei diritti televisivi è fra i più noiosi della storia, però c'è un advisor che alla fine hanno votato, che ha il contratto fino al 2016, e quello è, insomma, non è che ci sia stata due opzioni e una ha vinto piuttosto che un'altra, quindi quando poi ci sarà la scadenza del contratto sicuramente vaglieranno altre ipotesi, insomma. Però dal punto di vista politico è evidente che insomma la Juve sia l'opposizione, che quindi in qualche modo si stia muovendo per uscire legittimamente per uscire da questo tipo di situazione, insomma, non ci vedo veramente niente di male, niente di losco, ma insomma neanche niente di clamoroso nella scelta che era stata presa quando hanno deciso di dare a Infront quel ruolo lì. Claudio Milano, buongiorno. Buongiorno, Claudio da Milano, tifoso milanista tiepido e sportivo. Grande. Mi facevo questa domanda. Non era il caso forse di risparmiare i soldi di Matri investendoli altrove, in un altro reparto, tenendosi magari Petagna, che comunque forse è un po' giovane, forse non avrebbe segnato, quindi avrebbe avuto gli stessi risultati del Matri attuale, non avrebbe segnato. Però 0-0 a quel punto li tieni Petagna. È un discorso abbastanza vecchio, insomma. Se Matri ha causato quella reazione da parte di Conte, e se è stato pagato una cifra di un certo tipo, è perché Matri è un attaccante che conosciamo, che ha fatto stagioni importanti alla Juve. 2 anni fa è stato il miglior realizzatore del campionato con 10 gol, non tantissimi, ma insomma in quel sistema di gioco della Juve con tanta rotazione davanti, 10 gol in campionato comunque gli hanno consentito di essere, non quest'anno ma 2 anni fa, il principale marcatore. Io penso che lui abbia un problema psicologico in questo momento, perché comunque ha cambiato, ci sono aspettative su di lui, non ha ancora trovato il gol, e finché non lo trova è un casino. Poi magari lo troverà e si sbloccherà. Tutti gli attaccanti al mondo con i quali parli ti dicono che poi questa componente psicologica è fondamentale. Non a caso ci sono attaccanti che improvvisamente cominciano a segnare, basta che toccano il pallone, trovano sempre la porta, e altri momenti in cui non te ne va mai bene poi, una. E secondo me questo non è un mestiere facilissimo, fare il centravanti nel Milan, perché, ma questo negli ultimi anni, cioè fare la prima punta nel Milan non è un mestiere semplicissimo, perché devi i palloni che ti arrivano non sono sempre pulitissimi, devi farsi della squadra, insomma devi fare un po' lo stopper offensivo, ed è questo che ti chiede quel tipo di gioco. Poi se l'ascoltatore in qualche modo vuole sottintendere che si potevano spendere quei soldi per comprare un difensore, io a quel punto lo appoggio tutta la vita, perché secondo me è il solito discorso, cioè comunque il Milan ha delle carenze strutturali in difesa e nessuno se ne occupa, questo è la realtà dei fatti e del mercato. Sì, ma vedrai che adesso quando Matri trasloca non vive più nel monolocale con Anargi, si ripiglia, Sì, sì, perché la, sì, ma stanno cercando, poi magari la sentiamo l'Anargi. Dai. Sì. Ettore, Milano. Gita, buongiorno, sono Ettore. Ciao Ettore. Sì, no, aspetta, spegni la radio, perché sennò Pardo non sente niente. Pelino. Grazie. Allora, io sono un interista della Madonna. Della Madonna. A differenza del milanista tiepido di prima, quindi no. Qua è un po' diverso. Volevo, secondo te, un pronostico per domani Inter-Roma? Ma vuoi anche il risultato e i marcatori? No, voglio il risultato perché devo mettere su una cifra. Vabbè, adesso, ma queste sono responsabilità clamorose. Per me 0-0. Veramente? Per me 2-2. 2-2, però sempre 6-X. No, perché secondo voi è un pareggio? Secondo me sì. Secondo Pardo pure, quindi... Secondo me non lo so, non ci becco. E poi se ti dico un risultato sicuramente non succede. Quindi io ti proporrei di risparmiare quei soldi e andare a cena fuori. Carboidrato possibilmente. Però vado a cena a base di pesce. Ah, vabbè. Se vinci, se perdi. Lo stesso, io sono tassista, faccio quello che voglio. Cioè Creberto. Va bene, buon pesce, Ettore. Senti, allora... Dica. Faccio il pareggio? Io farei il pareggio, però poi non venire a pigliartela con me. Che vogliamo fare? Quanto vogliamo mettere? Sì, è bello, è un momento proprio da bar. Quanto vogliamo mettere? Ma vogliamo fare pareggio... Ma se no facciamo quelle cose tipo over. Io farei over. Cos'è over? Over è dai 3 gol in su. Ah. No, faccio 500 sul pareggio. 500 cosa? Non voglio... Attenzione. C'è la borsa, ci sono i mercati, c'è stata... qui. Lo paga gente, lo pagano 2,30? Sì, pagano 2,30. Non è male. Io gli avessi 2,30 è poco per essere un pareggio. Adesso io non sono un grande scommettitore, però 2,30 è poco per essere un pareggio, perché i pareggi di solito sono molto di più. Qui c'è scusa, la vittoria è 2,30, la vittoria dell'Inter 2,30. Il pareggio non lo so, oggi ci guardo e poi non so se mettere 500 o 1000. Pensaci sopra. Quasi conviene giocare la Roma, no? Così se vince l'Inter, non fare lo sperico. Ettore vuole giocare 500 euro, li giocasse. In bocca al lupo e niente. Ciao, insomma. Pardo. Ciao. Gioca responsabilmente, come si dice, no? Ecco, come sul pacchetto di sigarette ti dicono che nuoce alla salute, quando vai a scommettere ti dicono gioca responsabilmente. Ma che vuol dire responsabilmente? Cioè, se stai giocando, va bene. Quant'è responsabilmente? Sotto ai 30 euro? No, sotto ai 20 euro? Non ho idea. Non ho idea. C'è Davis Mangia, ecco linea qui. 2, Mangia! Come Buongiorno. Va? Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. Che tutto giocheresti posto, tu? Inter-Roma, 1x2. Diamo un consiglio a Ettore che era qui un istante fa. X così, non scontento X. Nessuno. E siamo in tre. E siamo tutti dei svizzeri, tutti ticinesi. Proprio una cosa vergognosa. L'ultima tutto 0-0. Proprio Democrazia Cristiana anni, non so, 60, 70, 70, dai. 70, va bene. Senti mister, stavamo parlando di allenatori e di peso specifico degli allenatori e del lavoro di Garcia e Mazzari, sono loro i veri protagonisti di questo inizio di stagione? Vai. Loro con delle società importanti alle spalle, con dei giocatori validi a disposizione, perché la formula è sempre quella, secondo me. Un allenatore da solo può far poco. Quando ha la fortuna di avere una società che lo sorregge sempre, quando ha la fortuna di avere buoni giocatori, riesce anche a portare avanti o a proporre le proprie idee in modo compiuto, come stanno facendo Mazzari e Garcia. Due modi diversi di intendere il calcio, ma tutte e due stanno dando ottimi risultati. Ci dici, da collega sia di Garcia che di Mazzarri, la cosa che ti colpisce di uno e dell'altro? Cioè, se dovessi dire tecnicamente il merito principale di tutti e due? Mazzarri? Tutti gli anni si dice sempre che è difficile giocare con Mazzarri. Penso che sia un gran complimento. Lui è molto bravo a preparare, a mettere in evidenza le difficoltà o i lati deboli, i punti deboli degli avversari. Secondo me, invece Garcia è un allenatore che sta portando una squadra che gioca bene, secondo me gioca bene, ma e fa anche un calcio direi nel modo giusto, prendendo la parola nel modo giusto, pratico, anche pratico. Con grande qualità, perché la Roma ha grande qualità. Sì, sì, assolutamente, però la qualità è messa a servizio della squadra e quindi si hanno dei risultati evidenti, insomma, oltre che dal punto di vista del gioco, anche i risultati stanno parlando in modo abbastanza chiaro. Allora, tutti convocati. Davide Smanza, vorrei chiedere anche una cosa su Conte, ne parlavamo io e Pierluigi prima. La nostra impressione, mister, è che Conte stia cercando in modo un po' trasversale i bottoni per riaccendere l'intensità della Juventus, vuoi parlando di mercato, vuoi dettando regole molto ferree anche a un monumento del calcio mondiale come Pirlo, e lo diceva prima Pardo. Insomma, mi sembra che stia cercando i tasti giusti per riaccendere la squadra. Ma lui, conosco abbastanza, oltre ad aver dimostrato di aver dato una grande idea, un'ottima idea di gioco alla Juventus e aver ottenuto grandi risultati, è sicuramente un gran motivatore e quindi probabilmente quest'anno sta cercando anche di toccare quei tasti che possono un pochettino far ripartire magari la Juventus al massimo dei propri giri. Non è che sta facendo male, non ha ancora perso la Juventus quest'anno, cioè, ha fatto risultati comunque lusinghieri. Però magari giustamente, secondo me, è proprio la forza di quella squadra, non è una squadra che un gruppo che non si accontenta e quindi vuole sempre andare oltre. Questa è un'altra grande qualità a loro merito. Lì come si risveglia l'intensità? Come si riesce? Perché mi sembra che la chiave sia quella, no, della Juve di questi due anni, una squadra tecnicamente molto importante. Sì, aggiungendo un'ottima qualità, perché certo. Ha fatto partite di qualità sempre, e poi è chiaro che l'intensità aggiunta alla qualità, alla velocità, sono doti importanti. Come lo sa, penso che più che Conte non lo può sapere nessuno quali siano i tassi da toccare, ma penso che ha sempre detto, ma si vede anche che ha a disposizione una squadra di persone, di ragazzi intelligenti prima che di ottimi giocatori, quindi secondo me la Juventus farà ancora una volta un grandissima stagione. Il Milan come lo vedi? Il Milan qualche problemino. Però è una squadra di gran qualità. Se l'anno scorso, da gennaio in poi, diciamo dopo l'acquisto di Balotelli, ha fatto quello che ha fatto ed è arrivato terzo, quest'anno avendo una squadra comunque completa fin dall'inizio, io sono convinto che ha tutto per arrivare nelle primissime posizioni. Poi dopo la differenza la fanno i dettagli. Ce ne sono tante squadre valide, perché abbiamo parlato di Inter e Roma, Juve, Napoli, Milan. Certo. Ti ha sorpreso l'esonero? Non mi dimenticherei della Fiorentina. No, quello senz'altro, ieri sera grandissima. Ti ha sorpreso l'esonero di Gattuso da parte di Zamparini? Cioè, dico, è arrivato tardi, no? È arrivato dopo parecchie settimane. No? Dovevo completare la frase, ero fermato subito la prima parte. No, cosa devo dire? Cioè, tanto dispiace, perché comunque dispiace, perché quando anche un allenatore, dove mi metto anche in quella categoria, un allenatore giovane, gli viene data la possibilità, è opportuno anche dargli le possibilità di crescere insieme alla squadra che gli viene affidata, insomma, almeno dovrebbe essere così nell'idea, però vabbè, diciamo che lì non è che si può pensare a grosse sorprese, si sa che succede così, sì. Meno male, almeno una volta all'anno succede. almeno. Grazie, no, mister. Cioè, almeno per non gufare nessuno. Senti, una cosa finale su Florenzi, perché la sensazione, tu lo conosci molto bene, giocatore incredibile dal punto di vista dinamico, che deve un po' aggiustare il mirino, lo sta facendo? Deve fare un lavoro specifico per essere più lucido sotto porta? Si vede ancora di più quando sta molto bene dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista tattico e fisico, che anche dal punto di vista tecnico è un giocatore con ottimi valori. Tatticamente, secondo me, è uno dei, almeno tra i giovani che ho avuto a disposizione, è uno dei giocatori più completi in assoluto. Grazie, bene. Mister. Grazie. Grazie a voi. Buon mangia. Mario da Roma, linea 4. Mario, vai. Pronto? Ciao. Dica la Cruciani, dica. Pronto, sì. Dunque, sono un urbanista da Roma e ne va della mia leadership di esperto di calcio al bar. Sì. È importante. No, io la Roma negli ultimi 3 anni ha preso più di 180 gol, più o meno 60 gol al campionato, questi sui dati, cioè da Serie B la difesa. io ho sempre sostenuto che dipendesse da fatto che c'era troppi attaccanti, era squilibrata. E adesso? E adesso praticamente gioca senza centravanti quasi. Sì, ma non è neanche una novità, perché anche con Spalletti, grosso modo, non dico il modulo era lo stesso, però c'era un l'ultimo anno pure preso 60 gol, di Spalletti, Però mi sembra che dietro la Roma sia più competitiva quest'anno, perché ne parlavamo ieri. Centrocampo, Carlo, centrocampo. Ma anche dietro un giocatore come Benatia, guarda che c'è Marquinhos. L'anno scorso c'era Marquinhos. Sì. Cioè, teoricamente, il vero paradosso della Roma di quest'anno è che in difesa, teoricamente, doveva essersi indebolita, nel senso che comunque ha ceduto un giocatore che sta facendo bene, fra l'altro, a Paris Saint-Germain, pagato quasi 35 milioni. E ha preso Benatia, che per carità è un giocatore interessante, però insomma sembrava un filo sotto. E invece la difesa va molto meglio, perché c'è una protezione da parte del centrocampo che è nettamente superiore, perché De Rossi è un altro e perché tutti si sacrificano nella fase difensiva, cosa che l'anno scorso non succedeva. La Roma l'anno scorso faceva, come diciamo prima, dei 20 minuti pazzeschi e poi non aveva più gambe, ma insomma era evidente, non aveva. Addirittura Zeman era arrivato a riconoscere che la gestione della partita era una cosa che non andava fatta. Diceva: noi non possiamo gestire le partite. E invece nel calcio di oggi, a meno che tu non sia il Barcellona, quello di 3 anni fa, neanche quello di adesso, nessuna squadra al mondo può pensare per 90 minuti di massacrare l'avversario e di giocare a manetta. E quest'anno la squadra è più intelligente, mi sembra. Ma sì, dimostra come una squadra di qualità che forse aveva bisogno di un po' di razionalità che Zeman non aveva. Tu vuoi sentire Campagnaro? Io so, Genta. Ecco Campagnaro. E già da un po' che lavoro con lui, più o meno tutti i movimenti li so già, e quello è il vantaggio che ho magari sugli altri compagni di reparto. Però si sta facendo tutti quanti un ottimo lavoro, adesso si arriva alla Roma, una squadra che sta facendo benissimo, ha vinto le prime 6 giornate, sta dimostrando un bel gioco, subisce poco e sarà sicuramente durissimo. Importante per gli allenatori avere dei fedelissimi, una truppa che ti porti dietro e disposta a qualunque cosa per te. Campagnaro è un fedelissimo di Mazzarri. Poi è bravo, è uno un po' sottovalutato secondo me, nel senso uno che ha fatto sempre grandi stagioni. E quel Napoli lì era riuscito veramente a spostare l'asticella del rendimento individuale dei singoli giocatori a dei livelli incredibili. Insomma, io mi ricordo la Champions, soprattutto di 2 anni fa, la prima parte della Champions di 2 anni fa, una serie di prestazioni veramente di altissimo livello da parte di giocatori che non avevano questa esperienza e personalità internazionale. Quindi Campagnaro per me è uno di quelli che meglio rappresenta tutto questo. Ci fermiamo per il GR e poi torniamo. Io parlo fino alle 15:20 come ogni giorno. Tutti convocati.